stelle, qual impresa! Da Roma lo guerriero un tradimento. Ecco Pompeo, e a lui mi cedo. Tu regno soggiogato, nuovo riceverò, Roma un trionfo. Condumi, ecco il superbo, si trafitta Pompeo. Pompeo s'uccida. Contro inopportuno, evento strano. Ah, figlio, e tu chi sei? Perché nudine a ciò la costringete? Perché la guancia di valor t'ingete? Or che farò? Straniere, dove nascesti? In Cappadocia. Sei guerriere? Mugnai sotto l'insegne d'Ariarte. Ed tra custodi reali di Berenice, ho nuovo e nomi ancora. Come t'appelli? Ergildo. Il cor mi valga con insoliti modi, temo d'insidie. Olà! S'altro non chiedi, andrò. Dell'esser tuo fu notizie più certe. Berenice s'appressa. Ella ti vegga, indi se tal sarai, quale ti dicesti, a tuo talento andrai. Barbari dei!